con Sabrina Baracezzi per parlare dell'annata cinematografica 2018 da gennaio ad oggi e poi dopo il bilancio anche sentire i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Sabrina, ben trovata. Ben trovato a te, a tutti i radioascoltatori, e dicevo che sì, sono molto onorata di far parte di questo gruppo di persone che esprimono la propria cinquina d'oro per il 2018. Tuttavia, voglio subito dire che alcuni film purtroppo quest'anno per me è stato difficile vederli perché appunto ho passato gran parte del tempo in Asia per la selezione di Faris Film Festival, quindi ho visto moltissime cose asiatiche e alcune delle cose asiatiche che ho visto chiaramente fanno parte della nuova edizione di Faris Film, ma c'è qualcosa di asiatico naturalmente anche nella mia cinquina perché a cominciare naturalmente da Coreda, che immagino sia citato in molte di queste classifiche che appunto stai raccogliendo con una Shoplifter che insomma non credo che sia una novità visto che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, però questo film per me significa qualcosa. Per me, per noi significa moltissimo perché appunto abbiamo cercato in tutti i modi di sostenere il cinema di Coreda, distribuendo anche sul film precedente che era Ritratto di famiglia con tempesta, che era un film molto più piccolo, molto più personale. E Shoplifter rappresenta, secondo il mio punto di vista, una somma totale di tutto quello che ha fatto Coreda fino ad ora, raggiungendo poi il massimo del riconoscimento. Quindi, no, il massimo, nel senso che gli manca ancora un Oscar che spero arriverà ben presto. Tra i film che volevo citare c'è un altro titolo scontatissimo che tra i tre manifesti a Ebbing, Missouri, mi sembra che sia uno dei film più belli di quest'anno, ma tra le cose invece più indipendenti volevo citare in particolare due film che sono proprio all'opposto, nel senso che appartengono a due mondi insomma, lontanissimi. Uno è Il Menocchio di Alberto Fasulo, che spero qualcuno dei radioascoltatori abbia visto, seppure abbia avuto appunto una distribuzione molto piccola, però è un film in costume che racconta la storia di questo mugnaio ribelle accusato di eresia alla fine del Cinquecento, un film che rende merito insomma a questo grande talento registico di Alberto Fasulo e spero che Alberto Fasulo presto si sentirà parlare, di lui si sentirà parlare proprio nei festival maggiori. Tuttavia, insomma, ovviamente Menocchio è stato selezionato ad un festival importantissimo come quello di Locarno la scorsa estate. L'altro film che volevo citare, vabbè, appartiene un po' al nostro universo più pop, anche se tanto pop non lo è, si chiama Zombie contro Zombie, è chiaramente One Cut of the Dead, il film giapponese che ha incassato di più nella storia, nel senso che è un film che è costato 27.000 euro e ha incassato 30 milioni di euro all'oggi, quindi raramente nel cinema, nella storia del cinema succedono cose di questo tipo, ed è un film metacinematografico, assolutamente personalissimo, però che riflette quella che è l'estetica del genere zombie, horror, ma Sì. non è solo uno zombie movie, non è soltanto un horror, è un'operazione veramente raffinatissima e spero appunto che riusciate a vederlo, se non altro ha avuto chiaramente una distribuzione che abbiamo filmato come Tucker Film, ma presto sarà disponibile sullo SVOD e mi auguro anche in televisione. Gli altri due film a quota sono arrivata a 4 se non sbaglio, quindi posso citare soltanto uno, Beh, quindi vorrei poi citare Dogman. Dogman, ok. Sì, assolutamente. Credo che Matteo Garrone sia il più grande talento che abbiamo in Italia e quindi non può mancare Dogman nella mia lista. Però per l'altro puoi fare una citazione se non lo puoi mettere tra i cinque, insomma. L'altro è Coco, per cui esce fuori tutta, come si potrebbe dire, la volontà di favola che c'è nel cinema del raccontare appunto quello che è un racconto fiabesco e con la dolcezza che è appunto un film con Coco, che è comunque un film d'animazione ma che è veramente adatto a tutti. Dovrebbero vederlo tutti obbligatoriamente. Allora, il primo è un affare di famiglia, se non sbaglio, l'hai messo al primo posto. Sì, al primo posto, Al primo non c'è posto, dubbio. e ti dico anche che è tra i miei cinque, è un affare di famiglia, quindi è Sì. in buona compagnia. Bene, Sabrina, io ti ringrazio, un abbraccio, auguri e speriamo di risentirci presto. Assolutamente, grazie a te. Tanti auguri a tutti. Ciao. Ciao, ci sentiamo presto, vado a vedere Cold War. Ciao.